E ora ci addentriamo nell'isola che non vedi. Percorsi, natura, storia, vita. A cura di Maiorca Trekking. Un saluto da parte di Sergio a tutti gli ascoltatori di Italiana ed eccoci qui per il nostro consueto appuntamento con l'Isola che non vedi, la rubrica settimanale interamente curata da Maiorca Trekking solo per Italiana e dedicata a tutti gli aspetti storici, naturalistici e culturali meno conosciuti dell'isola di Maiorca. Oggi vi portiamo alla scoperta di una zona molto sottovalutata dell'isola dal punto di vista sentieristico e naturalistico. Vi parleremo cioè della Serra de Naburguesa, la piccola catena di colline che si trova appena alle spalle della città di Palma e che, pur essendo da sempre offuscata dalle bellezze della ben più nota Serra de Tramuntana, nasconde in realtà piccoli tesori veramente incredibili. È una delle zone che per prima Maiorca Trekking ha esplorato anni fa e vi posso assicurare che per noi è stata una vera sorpresa, perché mai ci saremmo aspettati di trovare tanti piccoli posti segreti di straordinaria bellezza. Al di là infatti degli splendidi panorami che vi si possono ammirare essendo un vero e proprio balcone affacciato su tutta la zona sud-ovest di Maiorca, la Serra de Naburguesa cela meraviglie storiche e soprattutto geologiche di grandissimo valore. Se siete dunque pronti per questo piccolo nuovo viaggio, restate con noi su Italiana e ci risentiamo fra poco per partire alla scoperta di Naburguesa. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile, lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato. Quella volta lei lo perse di vista, disperata lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi le stava piangendo, quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato. Dopo questa piacevole pausa musicale, siamo dunque pronti per partire con voi alla scoperta della Serra de Naburguesa e dei suoi piccoli tesori. Prima di tutto dobbiamo inquadrare geograficamente e geologicamente la posizione e le caratteristiche di queste colline. Naburguesa corrisponde alle montagne che si trovano alle spalme di Palma e di tutta la costa ovest della città fino a Palmanova, lambendo dunque il comune di Calviá. In realtà ci troviamo davanti non ad un'unica ma due catene allineate di piccole montagne, aventi un'altezza media di 400 metri, con punte massime di poco oltre 500 metri, come il Puig d'Embou o il Puig Gros de Bendinat. Dal punto di vista geologico, ognuno dei due allineamenti corrisponde a quella che scientificamente viene chiamata una piega di spinta da faglia inversa, ossia una sorta di accartocciamento dovuto a movimenti tettonici di stiramento, del tutto opposti cioè ai movimenti tettonici di spinta che hanno generato l'innalzamento della Serra de Tramontana. Siccome in futuro vorremmo dedicare un altro appuntamento riguardo l'intera formazione geologica di Maiorca, per adesso ci basta immaginare di stropicciare un foglio di carta per poi tentare goffamente di recuperarlo. Ecco, ogni piega che resta dopo lo stropicciamento iniziale può rappresentare una piega montuosa di faglia inversa. Ma oltre alla sua modalità di formazione, la Serra de Naburguesa presenta una struttura geologica incredibile, con più di 400 cavità sotterranee finora inventariate e mappate, habitat fra l'altro di numerosi chilotteri ed invertebrati endemici, alcuni scoperti solo di recente. E in pratica una gigantesca forma di formaggio bucherellata molto ma molto a fondo. Questa particolarità deriva dal fatto che mentre tutte le altre grotte di Maiorca, come ad esempio le ben note Cuevas del Drac, sono state generate da fenomeni tipici di carsismo, ossia attraverso l'infiltrazione nel suolo della pioggia, tutte le cavità della Serra de Naburguesa hanno avuto al contrario un'origine clastica, frutto cioè di movimenti meccanici di frattura del suolo. Questa tesi è verificata dal fatto che moltissime grotte della zona sono affette da fenomeni di cosiddetta soliflussione, ossia di scivolamento del suolo, che provocano salti interni alle cavità anche di molti metri, rendendoli spesso totalmente verticali. I materiali che troviamo fra queste montagne sono tre: il gesso del Triassico, creatosi fra i 250 e i 200 milioni di anni fa, le dolomiti del Giurassico, createsi fra i 200 e i 150 milioni di anni fa, e le brecce del Quaternario, che rappresentano le pietre più recenti. Scendere dunque all'interno della Serra de Naburguesa è come fare un viaggio nel tempo attraverso milioni di anni, ed è ciò che è stato fatto, visto che in questa zona sono presenti alcune cave di gesso sfruttate nel 1900 per la produzione di materiale da costruzione. Oltre che geologicamente stupefacenti, questi luoghi sono strettamente legati alle imprese di Re Giacomo I e alla sua spedizione di riconquista di Maiorca, che proprio fra queste colline ingaggiò numerose battaglie contro gli eserciti arabi. Il nome stesso di Bendinat, oggi nota località balneare, sembra deriverebbe da un'esclamazione del re durante una frugale cena con i suoi generali fra queste colline. Essendo ormai ridotte all'osso le provviste e avendo mangiato una zuppa di pane, olive e aglio, pare che il re avesse esclamato ai suoi generali Bendinat, cioè abbiamo cenato bene. Da qui il nome del pueblo di Bendinat. Come vedete, cari amici, ogni cosa qui a Maiorca ha uno strano perché. Bentornati bentornati cari amici in compagnia di Sergio di Mallorca Trekking su Italiana, dove nella puntata di oggi dell'Isola che non vedi stiamo andando alla scoperta della catena montuosa alle spalle di Palma, conosciuta come Serra de Naburguesa. In realtà, fra l'altro, nel Medioevo queste colline avevano un altro nome ed erano conosciute con il nome di Serra de Porto Pi. L'appellativo di Naburguesa è molto più moderno ed è dovuto alla famiglia Burgues, che fin dall'inizio del XVI secolo divenne proprietaria della grande finca di Bendinatta ai piedi delle montagne. Successivamente la finca passò di mano prima alla famiglia Salas e in seguito al marchese della Romana, che ordinò la costruzione del castello di Bendinatta, ben visibile anche dall'autopista che porta a Paghera. Ma nonostante questi passaggi di mano, la catena montuosa mantenne nel tempo il nome di Naburguesa, il ricordo dei primi proprietari Burgues. Le vie d'accesso a piedi alla scoperta di questi monti sono molte. La prima e più conosciuta che segnaliamo passa dal Mirador de Genova, in cima al quale troviamo il monumento a Nostra Signora della Paz, ben visibile da molti punti della città. Nel 1924 l'urbanista e capo dei lavori pubblici della città di Palma, Bernat Calvet, progettò di sfruttare i 10.000 metri quadrati di terreno nella parte superiore del Col de Genova per costruire un monumento dedicato alla Vergine. I lavori però allora non furono eseguiti subito, e solo nel 1940 venne costruita una piccola cappella dedicata al cuore Immacolato di Maria con una piccola croce. La configurazione che vediamo oggi risale al 1967, quando fu eretta una base voluminosa di cemento armato alta 22 metri e su cui solo nel 1985 fu posta un'immagine dell'Immacolata denominata Nostra Signora della Pace. L'attuale oratorio, spesso chiuso, è un capanno coperto di cemento armato che ospita un piccolo altare e un'immagine dell'Immacolata al centro. Un'altra via d'accesso parte dal cimitero della Villeta, altro piccolo tesoro poco noto della zona che racconta un piccolo pezzo di storia dell'isola. Costruito nel 1868, questo cimitero nacque grazie alla donazione di Joseph Safortesa, un nobile carlista che donò alla parrocchia il terreno dell'attuale piccolo cimitero. Ma perché far costruire un altro piccolissimo cimitero a Parma, dove già ne era presente uno molto ma molto grande? Per capire ciò dobbiamo ricordare che il carlismo è un movimento politico secolare che da sempre influisce e determina molti aspetti della vita politica spagnola. Ufficialmente si creò come conseguenza della riforma del 13 maggio 1713 da parte di Re Filippo V di Spagna, che modificò le regole di successione al trono ripristinandola l'ex Salica. Questa riforma aveva il principale effetto di limitare il diritto di successione ai soli figli maschi dei regnanti e aveva lo scopo di scongiurare il pericolo dell'ascesa degli Asburgo al trono di Spagna attraverso una linea dinastica femminile. Ma nel 1789 Carlo IV di Spagna, figlio e successore di Filippo V, approvò un ritorno alla precedente normativa, concedendo alle donne l'ascesa al trono in assenza di pretendenti maschi. Questa marcia indietro di Carlo IV, molto contrastata, venne resa effettiva solo nel 1830 da Ferdinando VII, che non avendo discendenti maschi passò il trono alla figlia Isabella II. Carlo di Spagna, fratello di Ferdinando VII e destinato a diventare regnante secondo la vecchia Lex Salica, si dichiarò derubato del trono, creando un'apposita fazione, denominata appunto Carlista, e scatenando una guerra civile che portò alla destituzione dal trono di Isabella II. In questo clima di discordia, alcune dei maggiori nobili carlisti di Palma designarono le terre ai piedi di Naburguesa come loro ultima dimora, proprio per separarsi dai luoghi di sepoltura dei non carlisti. Personalità eccelse sono sepolti qui, come lo scrittore e fondatore della società archeologica lulliana Bartolomeo Ferrà Perelló e suo figlio Michel Ferrà, uno dei maggiori esponenti della scuola di poesia mallorchina. Sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre e non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve. Domani invece devo ripartire, mi aspetta un altro viaggio. Sembrerà come senza fine, ma guarderò il paesaggio. Sono lontano e mi torni in mente, ti immagino parlare con la gente. Il mio pensiero vola verso te, per raggiungere le immagini scolpite ormai nella coscienza, come indelebili emozioni che non posso più scordare. Il pensiero andrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Bentornati su Italiana con Sergio e con l'Isola che non vedi. Siamo ormai giunti ai saluti finali, ma prima, come sempre, voglio ricordare a tutti voi che potete scoprire tutto il mondo di Mallorca Trekking attraverso la nostra pagina Facebook Mallorca Trekking, l'Isola che non vedi, o seguendo il nostro account Instagram Mallorca Trekking Project. Troverete tutti i nostri percorsi, sempre in continuo aggiornamento, potrete entrare in contatto diretto con lo staff di Mallorca Trekking per qualsiasi curiosità sulla nostra isola o qualsiasi informazione sulle nostre attività e partecipare alle escursioni che man mano programmeremo. Vi anticipo, in esclusiva per gli ascoltatori di Italiana, che in queste settimane moltissime novità saranno presentate sui nostri social e che a breve Mallorca Trekking organizzerà un evento aperto a tutti coloro che abbiano voglia di scoprire ancora meglio chi siamo e quali progetti abbiamo in mente. Continuate a seguirci perché nelle prossime puntate sui nostri social e sul sito italianamallorca.com daremo tutti i dettagli per poter partecipare. Non mi resta che ringraziare tutti voi per essere state ancora in compagnia di Sergio e vi lascio dandovi appuntamento al prossimo venerdì, dove conosceremo meglio colui che è forse il più illustre figlio di Mallorca, il filosofo Ramon Llull. E non dimenticate mai di vivere la vostra isola e scoprire le sue meraviglie. Ciao! L'isola che non vedi. Percorsi, natura, storia, vita. A cura di Mallorca Trekking.